Signorina! Buongiorno, signor Figaro! Ebbene, che si fa? Si muor di noia! Oh, diavolo, possibile! Una ragazza bella e spiritosa! Mi fate ridere! Che mi serve lo spirito che giova la bellezza se chiusa sempre sto fra quattro mura che mi par d'esser proprio in sepoltura! In sepoltura? Poi boh, sentite, io voglio! Molto corto! E davvero? Certo, certo, il suo passo! Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa! E ancora io, signor Figaro! Bravissima, vado! Quanto è garbato! Ah, Disgraziato figaro, è indegno, è maledetto, è scellerato. Ecco qua, sempre grida. Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia. A forza d'ovvio, sangue e stranutilia. Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Perché lo vuol sapere? Forse anch'egli va d'ombra. E perché no? Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto. Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Chissà cosa le ha detto. Oh, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Io voglio per forza o per amore, entro dimani, sposar la mia Rosina. Avete inteso? E voi dite benissimo, e appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma... Segretezza! È giunto il conte d'Almaviva! Chi? L'incognito amante della Rosina! Ah, appunto quello! Oh, diavolo! A cui ci vuol rimedio! Certo, ma... Alla sordina! Sarebbe a dir... Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in mala vista, che comparir lo faccia un uomo infame. Un'anima perduta, io vi servirò, fra 4 giorni, credete a me, Basilio ve lo giura. Noi lo faremo sloggiar da queste mura. E voi credete? Ma certo è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste una calunnia? E dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete? No, davvero! No, uditemi!